Ma io ce l'ho parlato prima di lui, ma l'ha capito. Silenzio, la vecchia! Si è appena... La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. So dire quando torno, meglio ancora quando e se tornerò. Faccio fatica tutti i giorni per cercare di capire cosa resta poi in fondo. Io, David Parenzo, voglio bene a Dell'Utri. Sono visto con sospetto. E questo resta agli atti. Vuoi bene? Aspetta, stai calmo. Vuoi bene a quello che oggi è un latitante. Io non me ne vergogno, per esempio. Tu invece, che sei il perbenista di sinistra, cioè, dovresti vergognartene. No, allora, era hai un detto. Divertismo. No. Stai ritrattando. Non vuoi più bene a Dell'Utri. No, voglio bene a Marcello. Dell'Utri, uno che oggi tecnicamente è un latitante. Vogliamo fare risentire per favore Parenzo su Dell'Utri? Sì, io, David Parenzo, voglio bene a Dell'Utri. Dell'Utri alla zanzara, settembre, sull'ipotesi fuga Santo Domingo, sì, eccetera, eccetera. Poi ho notizie fondamentali importantissime su Dell'Utri, serie. Ma che sei, molto barba serie. Finta. No, non sono una barba finta. Faccio ogni tanto il giornalista e ho delle informazioni. Cosa sei? Guarda, sono delle informazioni molto importanti. Aspetta. Sì. Psicologicamente è una vita che sono siamo preparato psicologicamente. Pronto al carcere praticamente. Che devi fare? Lo so. Ti ammazzi, nella vita si affronta tutto. Armi in pugno, direi, anche aggiungerei io. Armi in pugno. Se ci sono con le armi, se non ci sono si affronta senza. Quello che capita, quello che si può fare si fa. Con quell'aria da barboni, pronti a dirti quello che non si fa. Sarebbe meglio senza dubbio una cornacchia per... Poi a un certo punto, ma lei è pronto al carcere? È pronto all'ultimo atto? Sì, dovesse essere confermata la Cassazione, eccetera, il carcere, questa... Ah, però è nel senso, devi fare. Pronto no, perché io spero di no. Quindi pronto un cavolo. Tanto non è che c'è tanto da preparare. Devi fare una borsa e te ne vai. Ci metti due libri e basta. Allora, la notizia è questa, è confermata, vi assicuro, al 100%. Marcello Dell'Utri si trova a Beirut, questo più o meno si sapeva, però vi posso dare una conferma straufficiale. Marcello Dell'Utri si trova a Beirut. Mercoledì pomeriggio, stiamo parlando dunque di due giorni fa, Parenzo, mercoledì pomeriggio, il 9 aprile, ha avuto un colloquio telefonico con Berlusconi. Ah. Con Berlusconi, condannato in via definitiva, lo sappiamo, il giorno prima dell'affidamento ai servizi sociali, cioè della richiesta del procuratore generale dell'affidamento ai servizi sociali. Dunque, mercoledì pomeriggio ha un colloquio telefonico con Berlusconi, un colloquio che è durato una quindicina di minuti. Lui era a Beirut, questo colloquio è venuto mentre lui era a Beirut. Ecco. Berlusconi si è fatto chiamare Dell'Utri per salutarlo, sì. Marcello, cioè Dell'Utri, ha risposto da Beirut, un colloquio che era stato sulle europee, sulle candidature, eccetera. Da quello che io so, poi mi posso sbagliare, ci sono diverse fonti, non si è parlato né della Cassazione né di un'eventuale fuga, però insomma, certo, Berlusconi era consapevole del fatto che Dell'Utri si trovava in Libano, cosa che poteva tranquillamente fare. Beh, perché il passaporto, perché aveva il passaporto, nessuno gliel'ha ritirato. Non si sa quale passaporto, perché si dice che abbia un passaporto della Guinea, un altro di un altro paese. Però il suo passaporto non è stato ritirato. No, infatti erano andati dopo a ritirarlo. Comunque, colloquio telefonico tra Berlusconi e Dell'Utri mercoledì pomeriggio. Posso dire quando torno, meglio ancora quando e se tornerò. Cala. No, vabbè, se sono andato Dell'Utri, cala. Torna, amico mio. Scusa. Però io devo dire la verità. Devo dire la verità. Sentiamo la bestialità. No. Fossi in Dell'Utri, avrei fatto di tutto e continuerei a fare di tutto per non tornare in Italia. Ma sei matto. Tutto, di tutto. Pur di non finire a Giudici in ascolto. magistrati dell'Associazione Nazionale Magistrati Italiani, aprite un fascicolo a carico del dottor Giuseppe Cruciani subito. Ma che c'entra? Fascicolo da presentare. Ma che c'entra il fascicolo? Di reato. Che c'entra il fascicolo? Si è consumato un reato alla radio. No, no. Allora io dico una cosa, Dell'Utri che oggi ha detto mi sto curando, non scappo, eccetera, dovrebbe restare all'estero perché la strategia, sì, il mio suggerimento è questo, la strategia è molto semplice. Siccome non metto Berlusconi in galera, siccome Berlusconi non va nei domiciliari né finirà in galera, ovviamente per diverse ragioni che non stiamo qui a spiegare, e Dell'Utri deve essere messo in galera. Questa è la strategia complessiva. Voi penserete che sono un pazzo, però secondo me è così. Per mafia. Sì, d'accordo, va bene. Lo sappiamo. A parte che non è ancora definitiva perché è martedì la sentenza. Allora, ripeto la notizia, colloquio telefonico tra Berlusconi e Dell'Utri mercoledì pomeriggio. Ma al di là di questo, c'è una questione molto molto carina, caro Parenzo. Perché il giudice che ha proposto l'affido ai servizi sociali a Berlusconi, sì, ha detto: va bene, però tu non devi parlare, puoi parlare, ma non dei magistrati. Non puoi parlare male dei magistrati. No, ecco, esatto. Bellissima detto, questa cosa qua. Non detto, puoi diffamare la magistratura. Se no, rivediamo la misura cautelare. Beh, devo dire che è straordinario, perché Berlusconi potrà fare campagna elettorale, però senza parlare male della magistratura. Dovrà lodare i magistrati. No, lodare no, magari non parlarne, ma sarà la prima volta in 20 anni che succede. Cioè, per la prima volta in 20 anni avremo Berlusconi probabilmente in campagna elettorale senza una parola sulla magistratura, perché altrimenti quello lo mettono a gabbio, capito? Questo è meraviglioso. Ma ricordiamo una cosa di un anno fa circa, di Berlusconi che dice la magistratura è più pericolosa della mafia, così, tanto per gradire. Hanno fatto 150.000 intercettazioni telefoniche, non è venuto fuori un reato, e continuano con i processi che sono stati ripresi da tutti i giornali stranieri, dove la magistratura è una cosa seria, mentre da noi è una mafia più pericolosa della mafia siciliana. E lo dico sapendo di dire una cosa grossa, importante, ma avendo conosciuto tutto è così. Che ti sporca il parquet. Perciò resistere con calma tra incertezze e turbolenze. Questa è la nostra copertina, 800240024, collegamento con la Sicilia, non con Marcello Dell'Utri che si trova a Beirut, ve lo dico, anche se più o meno era venuta fuori. Si trova sempre sul Mediterraneo, però dall'altra parte del Mediterraneo, a Beirut. Invece noi ci colleghiamo con Palermo, ma dove c'è... Perché a Beirut poi? A Beirut, poi te lo spiegherò. Con il governatore della Sicilia, Rosario Crocetta, buonasera! Buonasera, che si chiama sempre presidente in Sicilia, non governatore. Ogni volta commento questo errore. Come sta, compagno? Mi sembra una cosa così da conquista delle Americhe, governatore. No, vabbè, sì, è vero, ha ragione, anche per presidente, me è brutto. Con semplicità. Sembra una cosa spagnola, di quelle cose spagnole del tempo della conquista, sì, no? Sì, abbiamo mandato il coso lì, l'emissario dello, sì, del governo. Senta, no, lo sai che io quando la sento al telefono sono sempre molto contento, perché lei è una sorta di personaggio politico molto... che non ha una sua, che non è catalogabile, eclettico, no? È molto male, fa quello male. Che gli, alla fine fa quello che gli pare, diciamo la verità, cioè non risponde né a un partito. Fino a un certo punto ho sempre dei binari entro cui muovermi, però vabbè, sento certo. Questi binari ci faccio viaggiare le locomotive, quelle belle. Beh, quello belle o brutte vedremo. Scusi, Crocetta, io però le voglio chiedere una cosa, ma il caso Dell'Utri, sì, no? Non getta discredito sulla Sicilia, cioè non è una vergogna per la sua regione, me lo dica chiaramente. Allora, la prima questione. Dato io rispetto le sentenze, sì, sempre dei magistrati, anche sì, quando non ci piacciono, perché questa è la legge, questo è vabbè, il principio di uno Stato, sì, ordinato. Sì. Altrimenti non siamo alla barbarie, vabbè. Alla barbarie. Dopodiché ci possono essere i magistrati che fanno, sì, bene. Cioè non è un perseguitato Dell'Utri, secondo lei. Ma la sentenza della magistratura è una sentenza in ogni caso che non va, che è quella. Vabbè. Dopodiché, faccia vergogna, no, mi sembra una parola grossa, perché nessun essere umano va insultato e va riconosciuto nella sua dignità. Ma è un perseguitato? Io posso è un perseguitato? La condizione politica, le scelte politiche che ha fatto Dell'Utri, sì, anche perché cristianamente io riconosco ogni, sì, un valore in qualsiasi essere umano, quindi non si può dire per esempio i magistrati sono mafiosi, sì, così come non si può parlare male del sì, così come io non mi avventuro a insultare Berlusconi e nessun altro, perché semmai si critica l'azione è una persona ma è bene che non sia più, è bene che non stia più in politica, che non possa dire la sua, secondo lei? Ma questo penso che ci sia tutta l'inopportunità, certo, perché quando una persona per 10 anni sta dentro i processi in cui lo si accusa di avere saldato un rapporto con la mafia, fra la mafia di Palermo e la politica, credo che chiunque perlomeno si sarebbe messo da parte per dimostrare la propria innocenza. Ma lei lo definirebbe un mafioso? Cioè, non è che può insistere molto su questa storia di che è un perseguitato della magistratura, no? Basta, dice lei, no? E sarebbe l'ora di dire basta. Cioè, scusi, Crocetta, se una persona che capisce di diventare il capo del governo in Italia, addirittura voleva diventare pure il capo dello Stato, non fa altro che attaccare gli organi dello Stato, io credo che cosa di più malato c'è in questa società, che è veramente inaccettabile. Scusi, Napolitano un attimo, non avrebbe dovuto condanna, riceverlo allora. Se avessi avuto una condanna mi sarei messo bello da parte e me ne sarei andato, dopodiché mi sarei tolto. Dopodiché posso criticare la sentenza, ma lo faccio non da una posizione. No, ma ho capito benissimo, Presidente, le voglio chiedere una cosa, ma Berlusconi, secondo lei, brevemente, perché poi abbiamo il traffico, è giusto che faccia campagna elettorale oppure no? Cioè lei, siccome Berlusconi comunque, volente o nolente, è il leader di un grande partito. Lo valuti lui, però che debba andare dai poveri anziani e educarli ad attaccare la magistratura, lì ha ragione i magistrati. Se lui è i servizi sociali per fare l'educatore, per non deve attaccare la magistratura, mica deve andare a dire guardate che i magistrati sono come i mafiosi. Non credo che questo sarebbe un'azione. No, però secondo lei, da capo di uno dei partiti dell'opposizione o comunque di un partito importante, è giusto che possa fare campagna elettorale o no? Anche se condannato in via definitiva. Però io credo che il reato di vilipendio alla magistratura esiste ancora o no? Sì, certo che è una, come per esempio quelli che dicono a un certo punto oltraggiano il capo dello Stato, esiste o no? Beh, ma i politici possono arrivare a questo, perché una cosa è contestare la decisione di un magistrato che appartiene all'opinione pubblica, una cosa è fare vilipendio, vabbè, di ogni cittadino. Una cosa è dire i magistrati sono peggio dei mafiosi, questo non lo può dire nessuno, non è che non lo può dire Berlusconi, non lo può dire nessuno. Ci sono regole precise in latitanza e per resistere c'è la baranza. Marcello, come here! Che si balla nella latitanza. Ve lo ricordate Marcello, come here? Ma non era Marcello Dell'Utri, era Marcello Mastroianni. Caro Crocetta, caro. Ma io Crocetta, pensavo che l'avevano segnalato sulla tangenziale nord-ovest. Appena ho sentito che mi avete interrotto, non pensavo che era. Pensavo che era sempre in tema. No. Voglio dire, se io avessi detto i magistrati sono mafiosi, non mi avrebbero già arrestato. Beh, no. Ma voglio no. dire, perché Berlusconi ha questo diritto che nessun uomo di governo che in Europa Vabbè, ormai è andata così. Lui ormai allora, in Inghilterra cosa succederebbe se il capo dello Stato, cioè il capo del governo, dicesse una cosa del genere? Ma adesso i giudici gli hanno detto, se tu in campagna elettorale infami i magistrati, parli male della magistratura, revochiamo i servizi sociali. E secondo lei è giusto? Ma non dimentichiamoci che lui è una persona che deve dimostrare la misura dei servizi sociali per qualsiasi cittadino. A Berlusconi fanno orrore, a Berlusconi fanno orrore. Il provvedimento operoso, per esempio, lui non deve fare più falso bilancio, perché altrimenti il ravvedimento operoso, se lui continua a commettere reati, è chiaro, quello è un reato. Ma lei lo riceverebbe come leader dell'opposizione, ad esempio, caro Crocetta? Lo incontrerebbe? Cioè, lo incontrerebbe come ha fatto Napolitano? Adesso, voglio dire, a nessun essere umano si nega un sorriso. Un sorriso. Io l'ho incontrato in Parlamento, ricordo, ci fotografarono tutti. Come no? E pensavano tutti chissà quale insuccia. A una coppia di fatto. Ho dato una mano persino a una persona che si è comportata in modo affabile e gentile con me, io sono stato altrettanto. Che la politica diventi barbarie e attacco degli esseri umani, questo non fa parte del mio metodo. Senta, vogliamo fare gli auguri, caro Crocetta, a quei dirigenti giudiziari. Sì, ho capito, ho capito. Che non può fare in questo momento, però consentitemi di sentire che un uomo politico, che sia Berlustone, che sia qualche altro, che vuole rappresentare lo Stato, possa dire che una parte dello Stato è composto da mafiosi. Tra i magistrati ci sono Falcone, Borsellino, ci sono tanti altri. Va bene, Crocetta, ho capito. Che hanno perduto la vita, che sono stati uccisi per difendere l'onore di questo Stato. Senta, Crocetta, io voglio chiedere una cosa, ma vogliamo fare gli auguri a quella coppia di Grosseto, uno è di Milano. Ah, bellissimo. C'è stata una sentenza, facciamo gli auguri, faccia gli auguri, lei da omosessuale. Che cosa hanno fatto? Beh, come cosa hanno fatto? C'è stata una sentenza del giudice di Grosseto che ha praticamente autorizzato, ha convertito il matrimonio fatto all'estero di due gay in un matrimonio italiano, certificato. Poi questa è una cosa talmente civile, io fra l'altro... Faccia gli auguri a questa coppia di Grosseto. Ma certo che gli faccio gli auguri. Gli italiani, perché dimostrano, ecco, allora la magistratura non è così proprio cattiva, Beh, adesso c'è il PM ripristina diritti che vengono violati dei cittadini, diritti costituzionali violati. Ma perché lei non ha mai pensato a sposarsi, Presidente? Ma io manco per idea. Perché? Perché siccome sono convinto che il matrimonio non liberi gli eterosessuali, perché dovrebbe liberare improvvisamente. C'è una prigione, dice lei, una prigione. Ma per carità, io non sono uomo da matrimonio, da contratto. Io sono d'accordo con lei, guardi. No, ma manco da contratto. Ma quale contratto? No, io, ma per carità, percorro la mia vita. Chissà quante volte mi sarei sposato in questi anni. Ma lei è stato sempre un gran traditore, mi sa, come me, signor Crocetta. Io sono sempre stato traditore. Io sono stato sempre fedele a me stesso. Ah, beh, Vabbè, non ho mai pensato. E la mia fedeltà consiste nell'essere infedele. Appunto, io sono sempre stato infedele. Sono l'infedele. Ma certo, scusi un attimo, ma lei non ha mai pensato di adottare un bambino? Sarebbe stato Crocetta padre? Beh, bello, piccolino, molto... piccolino no, perché ritengo che questo bambino abbia... non avrei tempo, non... Beh, certo, piccolino no, è di che età allora, scusi? Beh, non è che si può scegliere. Ma grande, che possa fare anche persino lui la scelta di accettare questa cosa, come fece Guttuso, che so, con Carapezza. Ah, ho capito. Un rapporto maturo, no, in cui... consapevole, ma più di uno persino, no? E questo con immenso quindi ci sta pensando. Farei nei confronti di lo farei persino nei confronti di persone in difficoltà. E perché non lo fa? Come poi però una cosa del genere verrebbe strumentalizzata delle serie, questo si è messo l'amante in casa, è stato così paraculo da mettersi da fare il giovanotto allora in casa, no? Esatto, siccome quando c'è un omosessuale di mezzo si vede una persona perversa, perversa. Sempre lì pronta a qualsiasi alla perversione cosa per il sesso. Io, siccome voglio dire, penso di avere una mia, allora non voglio dare ragioni a nessuno di speculare. Per cui possiamo stare vita, ma anche sarebbe imbarazzante anche per quel ragazzo, voglio dire, sarebbe, o quella ragazza. Possiamo stare sicuri che lei non si è fidanzato, che è tuttora singolo, non gliene frega più niente. Già gliel'abbiamo domandato una volta. Noi seguiamo sempre. Io sono innamorato dell'amore. In quanto vuol dire? Sono sempre innamorato, sono innamorato di tutte. Anche delle donne? Anche delle donne? C'è la bellezza delle donne, perché non... Ma Grillo, che ha dato delle veline a qua alle quattro capolista del Partito Democratico, come lo definisce Grillo? Vede, certo, perché non sono stati scelti dal web. Ah, per questo gli dà delle veline, dice. Vedi lei, che no? Anche Crocetta. Sì, sì. Se risceglievo il web, che avrebbe erano Belen il web, no? Ah, col web si arriva. Avrebbe anche il web, si sa, no? È mutevole. Vabbè, diciamo che in questa cosa delle veline c'è un po' di sessismo, secondo lei. Ma su via, non... loro non hanno il problema. No, questo io a me è simpatico, quindi lo sapete. Lo so. Quindi sì. Non è che cosa, però sinceramente una cosa che non comprende il Movimento 5 Stelle che è questa questione delle donne. Per esempio, io in Sicilia ho introdotto il doppio voto di genere. Per carità, non mi dica il queste doppio cose. Doppio voto di genere è una cosa tremenda, guardi, tremenda questa cosa. Io, per me non ci deve essere né doppio voto, né precedenza in lista, né obblighi di nessun tipo. Se uno è bravo viene messo lì, se uno non è bravo, maschio o femmina che sia. Bye. te e tutti i radioascoltatori. La palla del giorno è quella di Micaela Biancofiore, che dice: Berlusconi non ha mai diffamato le toghe. La signora Biancofiore, ma facciamogli risentire ore e ore di registrazione. Oddio, la magistratura, mio tumore della cancro della democrazia. White flower. Magari Berlusconi, ma Berlusconi può avere tutte le ragioni del mondo contro la magistratura, secondo me, la persecuzione, le cose, secondo me ha anche ragione, l'hanno perseguita, certo, io penso che sia stato perseguitato dalla magistratura, assolutamente. Dopodiché c'è stata una guerra che è stata vinta da qualcun altro. Senti, amico mio, non c'è bisogno di essere candidati, io la penso così, per cui non c'è bisogno di essere prezzolino, non sono prezzolato di nessuno, capito? Io penso che ci sia stata una persecuzione nei confronti di Berlusconi, però alla fine di questa guerra, lo stesso Berlusconi l'ha definita una guerra, di una guerra tra i magistrati e Berlusconi, ha vinto un magistrato, il signor De Pasquale, che è riuscito a far condannare Berlusconi. A uno a un certo punto ci deve sta, cioè ha perso una guerra, la guerra è durata 20 anni, è stata persa, perché un magistrato è stato più scaltro, più furbo di tutti gli avvocati di Berlusconi. Biancofiore: Berlusconi non ha mai diffamato le toghe, ha sempre premesso che c'è una parte della magistratura che è ovviamente politicizzata e che credo sia sotto gli occhi di tutti. Beh, mai diffamato. Possiamo ricordare per esempio Berlusconi magistratura cancro del 13 febbraio del 2013, così. Noi oggi abbiamo dentro la nostra democrazia un cancro, una patologia che si chiama magistratura. Da Visparenzo voglio bene a Dell'Utri. Oh. No, però ma spieghiamo che era una battuta. Aspetta, ancora, scusa, la, Biancofiore, ancora la Biancofiore. Dubito Dell'Utri sia latitante, forse in vacanza. In vacanza. Senti, questa cosa, sì, nota vacanza a Beirut. Nota località turistica. Credo che sarà trovato, non so dove sia, se è in vacanza, se in giro, ma io dubito francamente che il senatore Dell'Utri sia latitante. Questa è Crocetta che rideva, eh? Ah no, Dell'Utri. Questa è Crocetta invece. Pure col com'è che fa? Secondo Movimento 5 Stelle e alcuni dell'opposizione, Alfano si dovrebbe dimettere perché è responsabile della fuga di Dell'Utri. Adesso questo mi sembra, scusami, francamente un po' eccessivo. Ma perché? Ma adesso uno si deve. No, bisogna stare calmi, scusami, devo stare calmi. No. Sennò sembra che ogni notizia. Già Russo. Noi riteniamo in questo caso il ministro degli interni pienamente responsabile. Non solo, siccome si tratta di un esponente del suo vecchio partito con una lunga militanza in comune, sicuramente farebbe bene a togliere ogni dubbio nella mente dei cittadini dando le dimissioni. Vabbè, sentiamo il TG3, va. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Tra pochi giorni la sentenza definitiva su Dell'Utri, ma l'ex senatore accusato per mafia non si trova, forse a Beirut, per i magistrati è latitante. La replica affidata ai legali: sono malato e mi sto curando, non mi sottrarrò alla decisione della Cassazione, una vita a fianco di Berlusconi. La procura: se Berlusconi diffama i giudici sarà revocato l'affidamento ai servizi sociali, la difesa, agibilità politica per l'ex premier. Renzi: faremo sentire la nostra voce in Europa e annuncia una lotta violenta contro la burocrazia, lunedì le nomine per gli enti pubblici. Napolitano: c'è bisogno di riforme condivise per riavvicinare i cittadini alla politica, il tesoro smentisce il blocco dei contratti per gli statali. A Torino una famosa azienda dolciaria si sta espandendo sui mercati esteri e decide di investire sul futuro e di assumere giovani operai. Papa Francesco è tornato a chiedere perdono a nome di tutta la Chiesa per gli abusi sui minori commessi dai religiosi, nessun passo indietro. Sei ancora a casa, Simo? Marcello? Marcello, rispondi? Marcello from Beirut. Senta Crocetta, ma secondo lei, governatore della Sicilia, Dell'Utri... Oh, Madonna, è il governatore. E io lo faccio apposta, è latitano... Sultano della Sicilia. Sultano, direi. Più bello. Sultano della Sicilia. Sarebbe già più in sintonia con la mia apertura mediterranea. Le piacerebbe avere un harem intorno a sé, caro Crocetta, sì. Un harem? No. Beh, bellissimo. Perché gente... harem viene dall'arabo che significa sì. Aram, che non è esattamente quello che si pensa... il luogo della lussuria no. delle mille e una notte. Peccato. E semplicemente significa proibito, quindi già più proibizione di quelle che mi concedo, altre no. E che proibizione si concede, scusi? Tutte, cioè? Uno che vive incarcerato da 11 anni senza aver fatto quel reato, tipo di proibizione. Ma lei rischia ancora la morte, Crocetta? Rischia è sotto Ah, no, perché dovrei rischiare la morte? Rischio la vita. No, rischia la morte nel senso è ancora in pericolo? È ancora in pericolo? No, guardi che non è che una vita leggera, No, ma è ancora in pericolo di morte, cioè è ancora Vabbè, ma non mi piace farle pubblicità su questo. No, ma mica no. Si deve fare pubblicità. Beh, no, è ancora scortatissimo. Sicuramente non è che sono un amato, diciamo. Cioè la mafia non l'ama, insomma, la mafia. No, non mi ama, non mi ama. Non... Ma la mafia esiste ancora secondo lei? Lo minaccio, scusa. No, a sentire le chiacchiere di Berlusconi che la magistratura sarebbe peggiore della mafia, sembrerebbe che ne so, Sgarbi dice che per esempio non esiste più la mafia, perché se infatti gli hanno sciolto poi il comune per mafia proprio per questa situazione, perché ci aveva i mafiosi nel suo ufficio, sì. E non li riconosceva. Senta, però la mafia è cambiata, se la si interpreta con la coppa e la lupara non esiste no, più. No, certo, non c'è dubbio. Se invece la si vede negli affari miliardari che fanno, sì. Allora uno comincia a capire, no? Senta, però in Sicilia è successo un casino sulle liste del Partito Democratico per le europee, no? Un borese inutile. Un po' così, ma è inutile stare a ricapitolare. Ma secondo lei perché una dovrebbe, come il sindaco di Lampedusa, deve rinunciare per forza a questa candidatura? Perché Faraone gli aveva promesso di essere capolista, ma chi se ne frega? Poi uno prende i voti, no? A quello sì, però il problema è, guardi, che voto dà Renzi? Che voto dà Renzi nella compilazione di queste liste? Dia un voto. No, io a Renzi do sempre 100 perché sta dimostrando. Ma lei è troppo leccaculo con Renzi. No, ma veramente, no. Adesso sì. Adesso in passato sì. Non ero stato mai tenero. In passato no, in passato no. Adesso però sì. Guardi, io devo giudicare gli atti che sta facendo e questo è anche una. Il fatto che sta tentando di destrutturare un sistema dove tutto è ritualità, sì. Dove tutto è liturgia, sì. E comincia a mettere in campo cose nuove è già fatto... è positivo. No, è già come no, è già l'inizio della rivoluzione. Già l'inizio della rivoluzione, addirittura. Ma la doveva fare lei la rivoluzione. Perché lei pensi che uno dice, come ho fatto io con le province in Sicilia, no? Il coraggio di dire a un ceto politico, guardate che non si campa di politica, si fa politica. Senta, faccia un appello a Dell'Utri di non darsi latitante per l'immagine dell'Italia. Torna, Marcello, torna. Ma guardi, io siccome torna a Palermo, quasi dico, bene, se deve tornare qui per circolare per le vie di Palermo, preferisco che sia in Libano, no? Perché? Se dovesse tornare perché la magistratura fa altre operazioni, allora che. Cioè, meglio che stia libero pure a Palermo, no? Meglio in Libano, ho capito. Se deve stare libero, è meglio che sia libero a Beirut piuttosto che a Palermo. Che a Palermo, scusi. Almeno fa meno danni. Senta, ma lei non ha come sogno l'indipendenza della Sicilia, come i veneti hanno nel cuore l'indipendenza del Veneto? Un bel tanco Presidente, che la faccio sta guerra. No, senza guerra, un giorno. No, lei non questa ha. Questa guerra di secessione. No, senza guerra, ma lo farebbe. La vorrebbe l'indipendenza della Sicilia, sì o no? L'indipendenza della Sicilia, guardi, io le dico una cosa, che questo io sono un sicilianista convinto. Appunto, la vorrebbe o no? No, le dico qual è la prospettiva. Però se penso a una cosa semplice, una sulla sola. Qual è? Che è quella. Il Parlamento siciliano avrebbe introdotto mai il 416 bis, l'articolo che punisce l'associazione a delinquere di stampo mafioso? Io dico no. Allora, devo dire che essere appartenuti allo Stato unitario con la nostra autonomia ci ha fatto bene. Cioè, quindi, perché i siciliani non avrebbero avuto il coraggio di combattere la mafia come ha fatto lo Stato? Non perché non l'avrebbero avuto, perché i siciliani sono gente che ha coraggio. Il problema è che il condizionamento ambientale locale sarebbe stato talmente forte. Ho capito, perfetto. Che non avremmo avuto questa. Quindi quando quelli vanno lì con questo carro armato che è da farsa, d'altra parte c'erano i futuristi che volevano bombardare Venezia, questi la vogliono prendere a cannonate, ma sta povera Venezia io penso che non, intanto non sopravviverà a queste stronzate. Questo non c'è dubbio. Alla fine, come le definite, alla fine, scusi? Se qualcuno, stronzate. Se qualcuno, se qualcuno se deve temere qualcosa, Venezia è sicuramente dal rischio della marea, non sicuramente da queste cose mediatiche che servono. Queste buffonate, diciamo. Va bene. Presidente, grazie. Borsa, a presto. A presto, un abbraccio. Okay, stia bene. Grazie, ciao, grazie. Un abbraccio, un bacio come sempre. Anche se lei non gradisce da me baci, però che devo fare? Poi i baci li gradisco, perché no? Ma perché non si fa ogni tanto toccare i piedi come faceva una volta Lele Mora? Accarezzare i piedi. Bellissimo. Ma guardi, perché soffro di solletico. Guardi che bellissimo farsi accarezzare i piedi. Però soffro di solletico. Lei se li ha mai fatti succhiare i piedi? È stupendo. No. Bellissimo, Presidente. Non farei mai subire una tortura del genere a un essere umano. Grazie, a presto, grazie. Saluti. Anche perché non ho i piedi di Cleopatra. Ah, beh, ce l'ha brutti, questo è negativo. A presto, arrivederci. Arrivederci. Marcello! Ma non squilla, estero. Facci sentire la tua voce da Beirut, dove ti trovi? Ma guarda che lo squillo, io conosco queste cose, non squilla estero, No, squilla estero. Non è, no, lo squillo, ho fatto peritare, ti assicuro. Marcello, come here! Quello era un altro, però. Marcello Matriani. Sei ancora a casa, Emo? Noi sì! Amico mio! Mario da Pistoia! Ciao, buonasera, Luciani. Sì, magari dietro casa sua, dentro un armadio, che ne so, cioè, non è a Beirut, no, mai a Beirut, su, Mario, dimmi, sì, dai. Allora, due cose, molto veloci. Sì. Lorenzo, io non sono solidale con l'amico che sta a Beirut. Ma neanch'io, ma che discorso è? Era una battuta, non no? Non torni furbo. In Italia, Marcello, non tornare, non tornare in Italia. È Luciani che non vuole che torni, no, io ti mettono al gabbio, ti mettono al gabbio. Ma ti credo, se viene condannato per forza, scusa, ma che discorso fai? Ti mettono al gabbio, perché siccome non riescono a mettere Berlusconi al gabbio, mettono te al gabbio. Ma è istigazione a delinquere. Per me ci possono stare anche in vacanza alle Maldive, con degli pari tutti e due. Marcello, non tornare. Ma sei matto? Stamma a sentire, Luciani. Stamma a sentire. Uno. Che allora vuoi? L'ho detta. No, che voglio. Che stai sulle palle. Vabbè, ti sto sulle palle e sono contento di starti sulle palle. Funziona così a questo punto. Allora? Dopodiché, però, ti voglio dire che, nonostante il fatto che io vi ascolto poco tempo, mentre inizialmente mi stavi davvero sulle palle, oggi devo dire che, insomma, sono abbastanza d'accordo su tante cose che dici, al contrario di Parenzo, vabbè, allora? Che è diventato uno zerbino. E allora, cioè, volevo dirti questo. Ah, volevi dirmi solo ma questo? Di no, dopodiché, sì. Un'altra cosa, molto velocemente, sì. Per quanto riguarda la magistratura in Italia, uno, secondo me le sentenze vanno rispettate, pur non condividere. Vabbè, ma è una banalità questa, le sentenze no, vanno rispettate. Aspetta, stiamo a sentire. Banalità una sega. Una sega, sì. Dopodiché, io sono d'accordo nel dire che la magistratura in Italia va riformata, perché è un gran cesso. È una? È un cesso. È un cesso, benissimo. È una vergogna. È una vergogna. La magistratura in Italia è una vergogna. Va bene, è Mario. Dunque, conclusione? Conclusione? Conclusione è, oh, datemi da fare e cambiamo sto cazzo di paese. Ma io non devo fare niente, io mi devo divertire, ma che me frega a me, Mario? Sto divertendo anch'io, eh. E allora divertiamoci, arrabbiamoci ogni tanto, ma noi non possiamo fare nulla. Ognuno può fare qualcosa nel suo piccolo, mantenendo un comportamento corretto, pagando le tasse, cioè non pensate che i politici vi possano risolvere i problemi, possono fare leggi migliori, come? Ma che dici? Ma politici che risolvono problemi loro, mia nostri. Dell'Utri, Marcello resta all'estero, passaporto diplomatico e fai a tutti un bel tiè, Marco da Pescara. Resta lì la letta che sta meglio. Resta a Beirut. Ma tu ti rendi Marco da Pescara? Dici? Ma sì, io gli do un consiglio. Ma è una cosa gravissima. Ma io do un consiglio. Resti all'estero. Ma che cosa è gravissimo quello che dici? Ma quale gravissimo? Marco molto da Pescara. Grave. Ma quando mai? Assolutamente no. Fossi in dell'Utri, io non tornerei in Italia. Si fa tutta la vita latitante. Perché vogliono metterlo al gabbio. Ma se uno viene condannato per mafia, sa com'è. In certi paesi. Ma come sei banale, Marco da Pescara. Io sto dicendo un consiglio, non sto entrando nel merito. Devi fare sempre strano. Non sto entrando nel merito. Uno rimane lì perché non sto entrando nel merito. Gli sto dando un consiglio. Dovresti entrare nel merito, visto il reato, però. Ho capito. Lì? Nel merito deciderà la Cassazione martedì. Deciderà la Cassazione martedì. Questo certo. Io gli posso dare un consiglio, siccome il disegno è abbastanza evidente. Siccome e qualora la Cassazione dovesse condannarlo, tu gli dici comunque rimani là? Io fossi lui. Qualora la Cassazione lo avesse. Allora, se avessi le possibilità economiche di dell'Utri. Ma se stare... avessi la possibilità di ottenere un passaporto diplomatico, me ne starei in Guinea-Bissau, circondato da neri. Bella morale che hai, bella etica. In Guinea-Bissau, ma che c'entra bella l'etica? Etica. Marco come da Pescara. No? E cosa c'entra? Marco bello, da Pescara. Bravo. Marco. Bravo. Marco. Sì. Dimmi, dai, forza. Sì. Cruciani. Sì. Amico, allora, hai fatto bene a dire che te ne andresti in Guinea perché ancora a casa siamo, come dici, dell'Utri. No, ma che vuoi, meglio a Beirut che in Italia. Non ho capito. Si vive meglio a Beirut che in Italia. Ma io non lo so, avete sentito prima che cosa ha detto Crocetta? Crocetta ha detto se deve essere libero meglio che sia a Beirut che non per le strade di Palermo, riferito a dell'Utri. Io dico invece resti all'estero coperto dall'immunità, dalle cose, di qualche paese africano. Sono pienamente d'accordo con lei. Le volevo solo muovere un appunto. Un appunto, sì, mi muova un appunto. Dica. glielo muovo. Allora, muova. Quando chiama un interlocutore, no? Sì. Voi a ogni condizionale o a un congiuntivo lo correggete con ma no, veramente non lo facciamo mai. Comunque, Marco, lo facciamo ogni tanto con Razzi. Razzi non c'è bisogno, come dire, da solo, no? Allora, quando Crocetta dice pensavo che l'avevano visto in autostrada, non glielo fate la sottile ironia, come mai? Non ho capito, scusi Marco, quando? Quando Crocetta ha detto, parlando dell'Utri, pensavo che l'avevano visto in autostrada. Perché non l'avete corretto come fate con gli altri interlocutori? Ma che ne so, è che ogni secondo sto lì sul pezzo, devo correggere questo piuttosto che l'altro, divento pazzo. No, però lo dico... Non devi usare due pesi e due misure, capisci? Vabbè, che io dire? Uso due pesi e quattro misure. Massimo da Roma, buonasera, Massimo. Massimo, dai, forza. Sì, buonasera Cruciani. Io volevo dire questo, a proposito delle dichiarazioni fatte trapelare oggi o fornite dalla magistratura di Milano relativamente a Berlusconi, che se in caso di future dichiarazioni diffamatorie della magistratura revocherebbero i servizi domiciliari allo stesso. Sì, sociali, servizi sociali, non domiciliari. I servizi sociali, chiedo scusa. Io trovo che ancora una volta, a mio avviso, la magistratura ha perso un'altra occasione per... Lui ha perso la linea. Cioè, lei ha perso la linea. Guardi, secondo me, se uno deve fare i servizi sociali, non è che esce dai servizi sociali che sono una sostituzione della pena e poi dice che la magistratura sono delle merde, dei mafiosi. È normale che la magistratura metta questo tipo di paletti. Pronto? Sì? Pronto? Sì? Sì? E il conduttore? Sì, beh, certo, il conduttore. È il must di questa settimana. È eccezionale. Il must. Pronto? Pronto? Tutto in diretta, pronto? Sì. E il conduttore? Beh sì, se uno chiama al centralino di una radio. Ti ha fatto sbroccare con una frase minima. No, ma se uno chiama al centralino di una radio. Senza neanche dare il nome, capito? Pronto? Pronto? Sì. Pronto? Sì. E il conduttore? conduttore? Ma sì, ma se uno chiama a centro di radio, poi a un certo punto uno entra in diretta, dice pronto, il conduttore, chi cazzo deve essere? La madre, il padre, il fratello, chi deve essere? Alessandro da Siena, buonasera. Ciao Cruciani. Dimmi caro. Io vi sento sempre, lo sai che ti seguo anche su Twitter, no? Ogni tanto. Alessandro, sei un po' omosex? No, perché? Peccato, no, alla voce. Era un po' una domanda da fare alla gente per la voce. Perché... ormai sì, fa sempre così ultimamente. Vabbè, no, sentivo questa voce un po', ma questa vocina. Mi sembravi omosex. Beh, non è che adesso tutti i froci abbiano la voce così, però comunque va bene. Ma tu sei omosex? Non credo. No, io no, no, no. Allora etero, etero, però vabbè. No. Senti, io volevo parlare della caccia, di quello che avete detto ieri sera, che abbiamo detto, viva la caccia, ho detto io. Lui però io quando dici viva la caccia, tutta la vita, con le sue regole, con le sue regole ovviamente, no, però viva la caccia. Ma devi pensare a una cosa, che prima di tutto che la maggioranza degli italiani è contro la caccia. Ma non me ne frega nulla se è contro la caccia. Aspetta. Poi facessero un referendum per abolire la caccia, va benissimo, promuovessero dei disegni di legge. Poi se dici le cose senza conoscerle, perché la caccia non è sempre, non c'è sempre stata, come dice anche Tozzi, ma non in quel senso, è che fino a pochi anni fa potevano cacciare solo i nobili. Poi dopo la guerra si è ampliata la cosa, è stata una rivalsa della sinistra, devono poter cacciare tutti per una questione sociale, non certo perché fosse naturale andare a caccia. Vabbè Alessandro, cosa vuoi dire? Io non ho capito, andiamo a riassumere la questione. Voglio dire che voi fate tanti progressisti, la violenza, non bisogna usare la violenza contro gli animali è sempre una forma di violenza. Tu dici, c'è tutta una storia di pensiero, di riflessione politica, sociale, filosofica. Non puoi liquidare e dire viva la caccia, perché sei in una posizione dove poi ti arrivano le critiche e non puoi rimbalzare. Io sono a favore della caccia, sarà possibile esprimere questo pensiero oppure no? Allora ci sono milioni di persone che non lo sono e stasera parliamo anche di quelli che non sono a favore. E infatti tu hai detto che non sei a favore, punto e basta. Ciao Alessandro, ciao. Non mi mordere il dito. Ma abbiamo con noi, caro Parenzo, mentre Salvini dice che candiderà uno degli indipendentisti in carcere. Signor Salvini dice che candiderà uno degli indipendentisti in carcere. Candidatura, sì, bisogna vedere se loro accettano, perché sono antilegge. Questi qui non è che. C'è in corso l'ipotesi di candidare uno dei 21 indipendentisti ancora in galera. Dice ma hanno candidato il nostro amico Borghi, lo sai, no? Hanno? Candidato Borghi? No, ancora non è ufficiale. Sì, sì, l'ho sentito 10 minuti fa. Sì? Ah, ovvio, cioè, mi stai dando una notizia, il professor Borghi Aquilini. Non si doveva dire. No, scusa, che ne so io, no. Il professor allora, confermo. Parenzo, 2 punti. La Lega ha deciso di candidare il professor nostro amico professor Borghi. Ah, sì, è vero, Claudio Borghi candidato con la Lega. Molto amico anche il signor Barisoni. Claudio Borghi candidato con la Lega, no, sì, l'ho letto pure io adesso. Ecco, vabbè. Da un po' di tempo, in realtà da qualche ora, Ci sono anche fuori Speroni, pare. Fuori Speroni, vabbè, chi c'è se ne frega. Ti do quest'altra notizia. C'è un grosso punto di domanda sul nostro chi? Amico Borghese. Lo so. No, grosso punto di domanda, anche perché, beh, lo diciamo, sì, c'è un problema in Piemonte. E possiamo fare un appello perché forse venga ricandidato, no? Non lo so. Beh, fare direi un di sì, io farò l'inferno. Ma intanto abbiamo con noi uno dei personaggi più controversi degli ultimi 30 anni in Italia. Sì? Altro che fecondazione assistita, altro che eterologa, altro che inseminazione artificiale, ne ha combinate di cotte e di crude. Dottor Frankenstein, praticamente. Ma tu lo chiami Frankenstein, io no. Il professor Severino Antinori, buonasera. Carissimi, capisco che voi scherzate, perché io ho lavorato 40 anni per far avere figli, quindi. Ma a me è però... obiettivo è sempre. No, io ultimamente su Frankenstein, però. Diamo i piedi a terra. Io ho lavorato 40 anni per avere figli. Quanti figli ha fatto nascere lei? Ecco, con la Tech sono nati 4 milioni. Con la Tech da me inventata 4 milioni. Lei ha fatto nascere 4 milioni di figli? No, non ho fatto. Ho promosso una Tech che ha fatto nascere 4 milioni di bambini. 4 milioni. 40.000 l'ho fatti nascere io direttamente. 40.000 bambini. 40.000 in 40 anni. Voglio dire. Per carità, io accetto le battute, giustamente. Vabbè, scherziamo, professore, sulla caccia, perché sulla caccia, perché non hai risposto che su un esperimento su un animale scoprì la possibilità di mettere un bypass al cuore, hanno salvato 2 milioni di persone? Ma io sono a favore con lei degli esperimenti animali, lei è a favore degli esperimenti sugli animali? I ricercatori devono essere rispettati. Quello che bisogna dire invece, una provocazione, mi dica. È stata fatta una legge 40-10 anni fa, firmata dalla Lega, anche dalla Lega, è vero, che ha dato la sofferenza e la tolto la libertà a milioni di persone. Propongo l'arresto di Salvini dopo 10 anni di questa legge, come propongo l'arresto di Casini, della Binti, no, sì, della Binetti, sì, della, sì, della, sì, della, praticamente di, della Binetti, di Rutelli, che, sì, hanno fatto questa legge 40 10 anni fa unitamente a quelli che hanno firmato, sì, perché ha dato la libertà, ha provocato il danno a milioni di persone. Dunque, quelli che hanno fatto la legge 40 andrebbero arrestati, secondo lei? Oggi, oggi, come, certo, oggi, quelli che hanno andato all'estero, le donne, oggi, hanno, perché, deciso di chiedere il rimborso di questi 10 anni di spesa. Sì. Giusto, giusto, bisogna... Però... un action act. Pare... Vedi, voglio dire, questa io rispondo... Però, professore, si fermi un attimo. Questa radio qui, sì, condotta, sì, da Cruciani, è un senso... della realtà, dei diritti costituzionali, della libertà, come sempre vi siete schierati. Io oggi è stata abolita una legge perché ha violato, sì, 7 diritti costituzionali. Quindi oggi in Italia, no, io già da oggi ricominciamo a aiutare le coppie con queste età. Oh, ecco, benissimo, però, una vergogna, è stata una vergogna. Professore, sono d'accordo con lei, però un attimo solo. La libertà va rispettata. Ma chi è che andrebbe mandato in galera? Il primo? La cosa più vergognosa qual è? Qual è? Io chiederei l'arresto di chi? Pure. Della Lorenzina. Pure Lorenzina arrestata. No. Perché ha detto, invece di dire sono contento, le donne sono più libere, ha detto adesso metteremo altri paletti. Cioè, si è comportata da ostruita, da rebare e direi anche delinquente. Perché pure delinquente. Pure delinquente. No, invece, no, di essere contenta, non si può dire che, delinquente. Perché invece si contenta che la legge dà a milioni di donne la possibilità di avere un figlio, no, in Italia. Hai, ma, capito? Scusa, ma sa, professore, quella sta, scusa, con l'NCD, eh. Cioè, sta con Alfano, là, nuovo centrodestra, lei non sa che cos'è NCD, quella... Sto, sì, dicendo degli ipocriti imbiancati che sono spesso legati, sì, a sette al di là del Tevere, che pensano alle altre cose. Al di là del Tevere. Sette, spesso, a spesso, sette. Spesso, ma come sette? La Chiesa? Ma non è una setta! Ma non è una setta, no, è la Chiesa Cattolica, professore! Che spesso sono accusati di pedofilia, diciamo, Parenzo, di le cose come stanno, capito? Ma vabbè, io non dico, sì, certo, niente, scusami. Scusi, la chiamata setta, però. Al di là del Tevere, capito? C'è, che c'è, oh, al di là del, ma, Tevere, un... Al di là del Tevere, quanti preti sono stati dichiarati pedofili in America? Centinaia di migliaia hanno danneggiato bambini. E questo signor, il signor è grande, il grande pontefice. Signor pontefice. No, che se la Chiesa si schiera contro l'anelito di coppia ad avere un figlio. Perché l'avvenire ha parlato male contro, adesso, ricomincia il adesso ricomincia il Far West. Tutte cose false, il Far West. Non c'è mai stato il Far West. Tutte, noi, sì, siamo gente senza... Antinò, un attimo solo, mi dica una cosa. Lei ha fatto nascere l'anziana, è stato, come dire, l'artefice della partoriente più anziana del mondo. Aveva quanti anni? 63, se non 63. Adesso ce n'ha 83 e sta benissimo. Cosa di buona salute, hanno un figlio di 20 anni, che dice, sbagliato o no? No, no, ma alla grande, alla grandissima, allora, io, dire, io sono con lei. Ha fatto un'altra anche, ha provato a fare un'altra. Aspetta, aspetta, no, lui, no, si difende, quella, la donna più, che ha più. Senta, invece, secondo lei fino a che età si può partorire? Si può partorire finché le condizioni biologiche tu consente. C'è anche una, anche una di 70, anche ho mandato via, sì, ho mandato via donne di 40 anni perché, sì, non è le condizioni. Può essere 40 come può essere 60, dipende dalle condizioni biologiche, non dipende dall'età. Oggi la questa è medicina. C'è anche uno di 70 anni potrebbe partorire, anche una donna di 70 anni. Noi dopo i 63 ci siamo bloccati perché l'età media della donna è 85, quindi per dare al bambino una mamma, un papà vivente, per una scelta abbiamo deciso 63, ma deve essere una donna in perfetta condizione. Ma io ho mandato via molte donne di 45-50 anni perché erano malate, quindi questo è il criterio di responsabilità. Qui in questa radio, che ne dicono questi che spesso dicono alla radio, alla zanzara? Voi dite delle cose sacrosante, è vero che noi gli altri non dicono. Qui grazie, hanno fatto la zanzara. Ma perché che corte, dicono della zanzara poi? Scusi, anzi, no. Dice, ma tutta gente irresponsabile, tutta gente che non parla cose. No, invece voi dite cose serie, magari in un modo diverso, però lo dite. Ma perché, però scusi, professore, vogliamo dire che lei, però, adesso fermiamoci per un attimo da questo argomento un po' serioso. Scusi, sono stato premiato al premio Nobel, scusi. No, quale premio Nobel? Il premio Nobel. Candidato al premio Nobel. No, io sono stato premiato anche da lui quando ebbi il risultato 12 anni, quindi quando fece l'Accademia delle Scienze di Però professore, io le dico una cosa, lei ha ancora quella splendida fidanzata colombiana molto giovane o no? Guardi, io di fidanzate credo che ce n'ha tanto. Non ne ho mai parlato, però penso che ognuno è libero di fare quello che vuole. Ma no, ma quello non c'è dubbio, ma ancora quella splendida fidanzata colombiana. Ma io le splendide donne le apprezzo tutte, quindi o colombiano di cui che sia. Ma no, aveva sempre questa meravigliosa, va rispettata la donna e va anche rispettata io ho visto una fidanzata tua, per esempio, di Cruciani. Cruciani è un Tom Verde fan, ricordate? Vabbè, adesso non esageriamo. È un grande esperto. Ma quella colombiana che ho visto io con lei, professore, quella colombiana. Ma che te frega? Sono tante in giro, bellissime. l'Italia, detto con diciamo il massimo rispetto per tutte le autorità civili, penali, eccetera, eccetera, lo conta un cazzo, un cazzo, un cazzo. Candidami Marione Borghezio, oggi verranno presentate le candidature della Lega a Salvi, e dai su con sto Marione Borghezio, non ce lo fare perdere, se no succede l'inferno qua. Marione, Marione mio, dove sei? Siamo ancora qui, siamo ancora qui. Allora, abbiamo con noi una delle persone più discusse nel campo della fecondazione assistita, fecondazione artificiale, ha fatto di tutto, tutte le tecniche possibili e immaginabili, la sua tecnica, non solo la sua tecnica, tante altre tecniche, utero in affitto, tutto ciò che è possibile. Eterologa, no, no, no, scusa, no, clonazione, scusa, Cruciani, professore. Cruciani, Cruciani, non è allargato, io non ho fatto utero in affitto perché non si può fare, quindi tutte cose, cioè io l'hai capisco fatte, professore, io ho fatto le cose che legalmente si possono fare, adesso beh, si possono fare le cose, lo faccio, mi hanno rivolto, io sono uno che malgrado rispetto alla carriera cerco di cambiare le norme con la Corte Costituzionale, ma non vabbè, faccio uteri di affitto, non faccio questo, faccio oggi rifacciamo le tarole in tutta Italia rapidamente, perché è giusto che ci aiutare queste coppie che devono andare all'estero. Secondo lei quante persone dopo questa decisione della Corte Costituzionale, quante persone possono nascere da qui a un anno? Ma penso da qui a due anni, perché quante persone? 9 mesi. Ma un 50.000 in più, 50.000 in più, addirittura. Ma certo, non è tanto, però. Professore, lei è diventato ricco con questa roba? Quanto è ricco, no, lei? No, ma non sono ricco assolutamente. Ma come no? Lei è ricchissimo. Pago le tasse. Vabbè, quello sì, certo che paga le tasse. Sono uno che ho lavorato, studiato tanti anni, ma non sono assolutamente ricco. Senta, ma oggi la Chiesa che dice che questa roba è una porcheria, che dice non che i matrimoni gay sono la distruzione della famiglia, che cos'è la Chiesa oggi? Ma la Chiesa è uno degli organi più oscurantisti, più antiliberali, più perseguiti, più pericolosi per la... Se il Vaticano scomparisse domani mattina sarebbe un bene per lui. Queste religioni di questo tipo sono pericolose, la libertà, i diritti, pensate che hanno fatto pericolosissimo. Una legge 40 voluta dal Vaticano, imposta dal Vaticano allo Stato, lo Stato finalmente laico si è ribellato e la Corte l'ha annullato, quindi come possiamo avere un Vaticano? Ognuno poi può avere la credenza. Senta, ma questa non storia facciamolo qua... parlare col signor Adinolfi un attimo, chiamo Adinolfi. Questa storia qua dello sperma di un figlio di una coppia per fare che era addirittura in secondo l'accusa no, professore, un attimo solo, secondo l'accusa. Ma no, non è vero, non è, ascolta, secondo l'accusa parla di una storia che io praticamente ho saputo di professore, un attimo solo, me lo fa dire un attimo. Allora, secondo l'accusa, lei avrebbe si sarebbe fatto dare 78.000 euro per prendere lo sperma di un figlio di una coppia, figlio tra l'altro praticamente con una malattia irreversibile, un figlio malato, per far rimanere incinta addirittura la madre. Non è assolutamente vero, non l'ho mai vista questa, è andata all'estero tramite un assistente che io conoscevo da 5 anni prima, questa l'ha trattata all'estero e l'ha debitata a me. Quindi, ma questo qua è nato sto figlio alla fine o no? No, non è nato, non so dove è andata, è una cosa riferita a me, messa sul mio gruppone al solito. Beh, però c'è un rinvio a giudizio, professore. No, su questo non c'è un rinvio a giudizio, c'è un rinvio a giudizio per la legge 40, violazione della legge 40. No, per violazione della legge 40, non per quel motivo lì, quel motivo dei 78.000 euro è tutta una falsità, tutta una invenzione. Ma lei farebbe nascere, un'indagine in corso, lei farebbe nascere, questa storia l'ha inventata il Vaticano, non vengo più alla Cruciani. Non vengo più alla vostra, non mi chiamare più perché non vedo più che siete scorretti, perché questa storia è stata inventata apposta. Ma me lo sta dicendo lei? E poi, no, adesso se ti incontro manco ti guardo, dette il parente, diglio, perché siete scorretti, questa cosa è una falsa storia. Ma io te lo sto chiedendo, ma te lo sto chiedendo che è un falso, come a me mi dissero un giorno che tu eri omosessuale, a me non mi risulta, voglio dire, non puoi dire te lo sto chiedendo io. Ma ti sto dicendo che è un falso. Va bene, l'ha messo in giro, è stato un gruppo di Comunione e Liberazione di Milano. Addirittura. Per infangarmi, però io sono stato assolto in tutti i casi. C'è un problema sulla legge 40, ma adesso è uscita fuori la legge e sono prosciolto in assoluto, quindi mi sono comportato sempre bene. L'inchiesta sulla legge 40 sarebbe nata da un caso sconcertante, leggo su Repubblica, la richiesta di una donna di poter ricorrere alla procreazione assistita utilizzando il seme del figlio malato terminale. Tu smentisci questa cosa in maniera categorica, bellissimo, giusto? Parenzo, sai che ti dico? Cruciani, non è tutto una montatura fatta contro di me. La gente non sa che mi conosco da 40 anni, io sono da 40 anni che lavoro, quindi non è un giorno, una montatura fatta da ambienti, ambienti che? Vaticani per diffamarti. Ambienti vaticani per diffamarti, vabbè. Un attimo solo, professore, un attimo. Guarda, non verrò mai più da voi. Ma scusa, ma ti ho chiesto una cosa. Ma ti ho chiesto, hai smentito una cosa. Un attimo solo, professore, un attimo. Piace un mondo così? A me fa cagare un mondo così. Un Adinolfi, Adinolfi, allora il professor Antinori, ciao Mario, ha detto... Quello sono io, sì, il mondo così fa cagare. Allora, il professor Adinolfi dice che nei prossimi due anni, grazie all'abolizione, comunque alla... quello che Antinori, non il professor Adinolfi. Il professor Antinori ha detto che dopo, che dopo Antinori, l'abolizione, come dire, dopo quello che ha deciso la Corte Costituzionale, nei prossimi due anni potranno nascere 50.000 nuovi bambini. Bravo, professore. Nuovi bambini. Ma non esiste, 50.000 nuovi bambini dovrebbero nascere, quale, 100 al giorno, non diciamo numeri a caso, insomma. Perché ma è un mostro, Antinori è un mostro? Antinori è un mostro. Antinori è uno che ha cercato in tutta la vita, con la sua professionalità, di fare cose, a mio avviso, folli, di fare la clonazione dei bambini, di costruire condizioni a mio avviso molto pericolose per il destino dell'umanità. La legge 40 non la vedo come una legge del Vaticano, la vedo come una legge del Parlamento confermata per via referendaria, più o meno come la 194. Vabbè, lo vedi come un uomo pericoloso, Antinori, per te è un uomo pericoloso. Ma ha fatto cose senza senso, evidentemente senza senso. La clonazione è una cosa sensata. Ma un secondo Adinolfi ha fatto nascere la pecora Dolly, per capirci, per fare la pecora Dolly sono state mandate in malora con aborti e malformazioni 277 pecore. Questo è la clonazione. Dice di aver fatto nascere anche un bambino da una donna di 63 anni, per te è una follia? Ma è senza senso, e perché cosa? Per forzare il limite fino a dove? Con quale senso? Qual è la razionalità? Antinori, risponda, Antinori. Prego, professore. Posso replicare o no? Sì, ecco. Certo. Allora, non verrò mai più a questa... vabbè, che dobbiamo fare? Allora, la clonazione di Adinolfi, che è un ignorante di scienza, è uno esperimento scientifico non per fare l'uomo, ma per vedere le cellule staminali, ignorante, per aiutare la vita degli uomini e delle malattie, ignorante, caro Adinolfi. Secondo, poi? Io sono uno scienziato di tutto il mondo, ma Adinolfi, che non conosce la scienza, mi attribuisce delle cose che non è la colazione, è un esperimento scientifico che ci permetterà di vivere molto di più, quindi... Vabbè, io però, professore, Adinolfi dice... Siete assolutamente scorretti. Adinolfi, invece di aggiornarsi, invece di pensare che io faccio la connazione, non capisce niente. Vai sulle riviste scientifiche, Adinolfi. Io ho fatto uno esperimento. Antinori, lei ha fatto nascere, dice Adinolfi, che lei ha fatto nascere una donna con. Ha fatto nascere un bambino da una donna di 63 anni, che è una follia, secondo lui. Vuoi sapere una cosa? Quando sono nate adesso di questi 63 anni in America? Quante? 2 milioni. Di donne. Da donne di 63 anni, da donne di donne a 60 anni hanno un figlio. Chiedi allora Adinolfi, non ha capito che la scoperta e l'avanzamento della scienza è proprio ignorante. Adinolfi, risponda ad Antinori. L'1% della popolazione americana è nata da figli di donne ultra 63 anni. Perché fate dire questi numeri inesistenti, che sono completamente farlocchi? L'1% della popolazione americana è nata da donne ultra 60 anni. Antinori ha il coraggio di ripetere una cosa del genere? Ma perché fate dire delle cose che non hanno senso? Adinolfi, fare propaganda, attività che non hanno senso. Mario, secondo te la sentenza della Corte Costituzionale lascia libero Antinori di fare quello che vuole? Spero proprio di no, spero proprio che la Lorenzin, da lui ingiustamente definita come l'ha definita, ponga esattamente dei paletti, altrimenti il Far West produce disastri, anzi produce Antinori, che è malissimo. No. Antinori, professore? Le caculi come Adinolfi, come Labini, tutta gente che in Italia vuole mettere l'oscurantismo. Mi fa spiace che lui Adinolfi... Ma vuoi mettere in galera, tu vuoi mettere in galera sta gente, Antino? Come? Tu vuoi mettere in galera tutti, la Lorenzin? No, l'hai detto prima. Io ho fatto quattro querele all'Avvenire. Vabbè, ma quello, vabbè, le querele fanno dire. Io ho vinto in Cassazione, capito? E quindi io rispetto la legge, io faccio le cose secondo la legge. Ma perché secondo te una donna di 60 anni, perché una donna di 60 anni ha diritto ad avere un figlio? Secondo te perché? Cruciani, non chiamarmi mai più, siete una scorretta. Ma che ho fatto? Ma ti sto facendo delle domande. Arrivederci. Rimanete ignoranti con Adinolfi, con questi pseudopolitici. Questo voleva fare il comizio? Non parlarmi più. Ma perché vuoi fare il comizio? Ma aspetta, Severino. Professore. Vabbè, è impazzito. Ciao Mario, a presto, dai. Ciao. Io, David Parenzo, voglio bene a Dell'Utri. Tu sei come una piccola zanza. Marcello, come here. Marcello, no Camier, resta dove sei, no, Marcello. No, torna, perché sembra davvero passaporto che stai... diplomatico, oggi sei ha detto matto, che vuole tornare, sì. Che non si sottrae al carcere, che ha delle cure da fare, l'angioplastica. Ma stai scherzando? No, no, no. Stai dalla parte di un latitante. Io non sto dalla parte di beh, un latitante. No, non rimangiarti quel che hai detto, ma scherzi. Io vorrei quella canzone però di quel neomelodico napoletano sui latitanti, meravigliosa, quella canzone sui latitanti del neomelodico napoletano. Ma se n'è andato il professore. Il professore si è andato, sì. Perché si è arrabbiato così? Dario, provincia di Salerno, su. Dario? Dario? Ci sono, Cruciani, senti. Dimmi, dimmi. Allora, niente, io volevo augurare a tutti quelli che sperano nell'arresto di Marcello oppure di Berlusconi di andarci loro in galera, è solo questo. Perché lei è stato in carcere? No, perché io so che cosa significa e so che significa stare in 4 metri per 4 con una porta da 10 centimetri. Ma lei è stato in carcere? Per che cosa? Io ci sono stato in carcere, non ha importanza perché dica. Beh, no, un po' sì, allora, ha importanza. Sono stato in carcere, ok? Ma per che cosa è stato in carcere? Ma guardi che non è un'accusa, sono stato assolto perché per una lite sono stato in carcere e sono stato assolto per non aver commesso il reato dopo 2 mesi di carcere. Ottimo, okay? Cioè ottimo. Allora, ottimo. Allora io le spiego, a tutti questi che augurano il carcere a Berlusconi, a Dell'Utri, io gli auguro di stare loro in 4 metri per 4, lontano dalla famiglia, chiusi. Ma perché no? Perché no, ma questo l'ho capito benissimo. Perché secondo te, Parenzo, tutti quelli che sono stati in galera, che hanno avuto problemi con la giustizia, per carità, Dario, chiamano qua, dici? Chiamano qua, secondo te? Ma no, io il problema è un altro. Allora, moralmente io le spiego, signor, perché è importante questo. Sì, io dopo 2 mesi di carcere sono stato assolto. Lo so, ho capito. Ha capito, va bene. Ho capito, comunque... però chissà perché poi alla fine va a pescare qui. No, ma non lei. Perché lei sta parlando di una persona sulla quale molti sperano che vada in carcere, perché ci sono questi qua che tutti quanti che si lisciano le mani perché devono vedere... queste persone in galera, Berlusconi in galera, tutti questi stronzi che si lisciano le mani per vedere l'eventuale, tolgono le libertà. Beh, ho capito, però scusi Dario, adesso fra poco, se abbiamo tempo e se recupero il materiale, c'è un signore americano che dice che in America Berlusconi era già in galera da un sacco di tempo, era già in carcere con le manette per reati fiscali, ha capito o no Dario? Questa però, al di là di tutto, io non voglio Berlusconi in galera, ma questa è una verità, in altri paesi c'è un'altra giustizia. Per carità, c'è un... lei umanamente non lo spera. Lei, ma umanamente a me non me ne fotte nulla, figuriamoci se voglio qualcuno in carcere, che c'entra, dai. Questi ipocriti che pensano che una persona deve stare chiusa in 4 metri per 4, che ci vadano loro. Scusi Dario, ma in carcere si ascolta la zanzara secondo lei? Sì, come no? No, io penso di... non lo so, penso di no. Perché no? Perché ha detto di prima, almeno nelle mie zone le posso garantire che ascoltano forse la canzone, quella che lei ha citato prima. No, ho capito, ma in carcere si può ascoltare la radio? Sì, ovviamente. Sì, come no. Ma secondo lei la zanzara è ascoltata in radio? Radio Zanzara. Sinceramente la radio in galera, stupendo. Vorrei fare Radio Zanzara in galera. Sarebbe molto simpatico Radio Evasione, anche perché i commenti sarebbero molto più luminosi lì. Lei dice, Lei dice. Radio Evasione. Perché alla fine, almeno nelle mie zone, dice, ma che sto stronzo che boh, ma vaffanculo, cioè, voglio dire, è un po' più calorosa la Beh, cosa. Quello non c'è dubbio, diciamo che in carcere di solito il linguaggio è più colorito, però noi ci avviciniamo abbastanza a questo linguaggio. So, ci sono leggi, rispettare le leggi, volevo terminare con questo. Io credo che chiunque... Lei da ex carcerato, faccia un appello al Dell'Utri, Marcello, non tornare! No, io non lo posso fare perché altrimenti mi dicono che sto con i delinquenti, per la moglie c'è. Allora, ma chi la riconosce tanto? Dai, su. Ma vabbè, no, io dico, non è che non torna, dico sta in una condizione psicologica e lei non mi deve raccontare quando ha fatto i guai, non ci stava. Una persona che sa di dover essere chiuso per anche un anno, sta in una situazione psicologica, le posso garantire, non lo auguro a nessuno. Sì. Quindi questo dico, basta, su. Vabbè. Anzi, a tutti quelli che traffico. Lo auguro a loro. Ciao, okay? ciao. Ciao. La zanzara è quell'odioso insetto. Voi siete una valvola di fuoco fenomenale, minchia, non abbandonate, continuate a picchiare duro e razzi e sgarbi cazzo tutta la vita, vi prego. Gratta gratta, ma peggio è. Pure lo spray a di zanzara mi son messo il piede, ma lei gira sempre intorno a me. Una volta Berlusconi raccontò quando all'ospedale San Raffaele una madre lo pregò di convincere il figlio bloccato provvisoriamente su una sedia a rotelle. Mi presentai dal ragazzo e gli dissi, raccontò Berlusconi, Giacomo, fatti forza, alzati e cammina. Lui, dopo alcuni giorni, si alzò. Ti assicuro che Berlusconi racconta questa, ha raccontato questa cosa. Beccato, ai ai ti ha beccato, come ti stendi nel letto, quel noioso insetto passa dall'orecchio. Davide, scusa, ma con chi stai litigando? È uscito su Repubblica, cavolo! Hai potuto replicare a quella cosa, che vuoi? Ma una vergogna di che era uscita la notizia, oh! Antinori, sta litigando con Antinori. Ma che vergogna! Abbiamo fatto una domanda giornalistica su un pezzo che era uscito su Repubblica! È il pazzo di Antinori. Vabbè. Senti, sono in diretta alla radio. Ma mandalo a fare in culo, dai! Che succede? Pronto? Mandalo a fare in culo, dai! Sono tornato sopra, che succede? Stavi litigando con Antinori. Mamma mia, come va! Eravamo in diretta? Sì! No, ma sei. Vabbè. Chiamalo, dai, ti prego, chiamalo di. Pronto? Pronto? Sì? E il conduttore? Eh sì, sì, sono il conduttore, tu, cazzo, sono il conduttore, porca troia. E il conduttore? Richiamalo tu un attimo. Richiamatelo un attimo. Prova, perché guarda, Silvia da Milano, non arrabbiare, cioè, hai fatto delle cose al telefono, meno male che non l'ho messo. Silvia da Milano. Ma cosa si è sentito? Pronto, scusami. Mi senti? Tutto, è la parte finale, che quando stai parlando con il professore. Aspetta che lo richiamiamo facendo finta che non stiamo in diretta. Sì, che ce frega. Silvia da Milano. Sono io, sì. Sì, dimmi. Posso parlare? Allora, noi ci siamo recati con mio marito dalla clinica Milano Matris. Sì. Perché noi non riuscivamo ad avere figli. Oh. Sì. E il grandissimo professorone, dopo avermi spellato come ma una chi? Gallina. Chi? Antinori? Antinori. No, dai, sì. Basta. È stato, quanti soldi ti ha preso, professorone? Ma intorno ai 25.000 euro. E vabbè, scusi, ma è un professionista, che vuole? Adesso un attimo, aspetta. Pronto? Professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascara, non stai lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. No, però quello che ha detto a me prima non era esattamente solo questo. Aspetta che richiamiamo, richiamatelo. Richiamatelo! Silvia, ma che me ne frega? Arrabbiato. Ma io che ho fatto? Io ho fatto due domande. Gliel'ho su. Detto. E allora detto, non rompesse le palle. No, io Silvia, detto, infatti, 25.000 euro, professore. Non è che sono stato lì, non è che sono stato lì a lisciarlo. No, ma ho sentito. Allora, 25.000 euro. Un attimo. Però cosa c'entra questo della signora? Aspetta, lei ha chiamato la signora, che ho chiamato io. Ho capito, però per me è un professionista, Antinori. Aspetta, stai zitto. Rimane il numero uno, figurati. Poi adesso sei incazzato, però. Adesso non risponde più, maledetto. Ma maledetto, scusi, poverino, anche lui. Cioè, ma io non ho fatto niente ad Antinori. Cioè, posso? Sì, un attimo, Silvia, un secondo. È il conduttore? Vabbè, bisogna passare 5 pronto? Minuti. Sì? Pronto? Sì. Pronto? Sì. Sì. Chi è? E il conduttore? Sì, esatto. Sono il conduttore. Cosa pazzesca. Perché mette una calma che ti gela, capito? Sì. Antino, rispondi, dai. Vabbè, non vuole rispondere adesso, no, Silvia, allora. Ma non risponde. Allora lei ha preso 25, cioè ha dato 25.000 euro allora, Antinori. Ho speso 25.000 euro per due tentativi di fecondazione assistita, dove la prima è andata male, e va bene, nessun problema, non è successo nulla. Il secondo tentativo, mio ultimo tentativo, quindi avevo due embrioni congelati, mi hanno impiantato gli embrioni. Al momento della consegna dei referti ho avuto i referti di un'altra coppia. Quindi la mia gravidanza è andata male, ma nell'ipotesi in cui fosse andata bene, io non sapevo se gli embrioni impiantati erano in miei. Cioè hanno fatto un casino, ma lei ha fatto causa? Sì, sono in causa. È in causa col professore Antinori. Però chi se ne frega. Però adesso la prestigiosissima clinica. Però Silvia, non conosciamo i dettagli di questa vicenda. Cioè, non sappiamo niente, dai, su. Allora poi gli posso raccontare. Mi racconti tutto, mi mandi una mail, la zanzara etra di 24. Rimane un professionista stimato per quello che sappiamo. Cristiano, provincia di Monza, dai, Cristiano. Mi sono arrabbiato con lui prima, però. Cristiano? Sì, Giuseppe? Dimmi. Ciao, volevo insultarti un po', come mi sembra continuamente ti insultano un po' poco. Ma non mi sembra, comunque, insomma. Niente, senti, volevo che mi spiegassi proprio come un bambino di 4-5 anni come funziona l'adozione per i figli gay. Senta, funziona semplicemente in alcuni paesi, è possibile adottare, una coppia fa un percorso, a un certo punto gli danno un bambino, punto e basta. Punto e basta. Ma non le piace? Pazienza. L'iter burocratico? Ma che ne so, ma si rivolga ai centri di assistenza, che me ne frega a me l'iter burocratico, che faccio il coso, il consigliere? Chi è? È sempre il professore. Ah, ma non risponde, guarda. Dici? Devo chiamarlo dal mio. Chiamalo dal tuo, dai, chiamalo dal tuo. Chiamalo dal tuo. Dove è Cristiano, allora? Cristiano? Non c'è più. Domenico da Milano. Pronto, ciao. Sì, niente, volevo dire che sono d'accordo con te quando sul tuo ragionamento sulla caccia. Come si chiama lì quello, il documentarista che diceva quelle Tozzi, cazzate Tozzi, sera, eh? Tozzi, sì, che sì. Mi sembra, che i cacciatori si eliminano tra di loro sparandosi proiettili in testa. Sì, sì. Mi sembra come quando Parenzo si incazza con la moglie di Almirante per il busto, cioè la stessa cosa. Beh, è completamente pazzo quello lì. Allora io poi mi dovete spiegare una cosa. Parenzo, che chiama. Tra gli animali che vengono cacciati selvatici e gli animali allevati che si ammazzano per mangiarsi, per fare le scarpe e quelle cose lì. Sono animali. Cioè, non lo so, guardi, c'è? Viva la caccia. Io dico solo questo, viva la caccia, regolata, ma viva la caccia. Oh, ma dica, di a Parenzo di farsi la patente, che non passiamo sto più. Sto facendo. Faccio 8 errori su 4, eh? 8 errori su 4 per ora. Che hai fatto 8 errori su 4? Faccio 8 errori, no, nelle prove. La patente, c'ho qua in via Torino, tutti che mi dicono, dite a Parenzo di fare la patente, deve fare la patente. La sto facendo. C'è una schiera di persone che la sta facendo, meno male. Le ho detto, non mi risponde neanche a una certa età, Parenzo, non si poteva più. Va bene, Domenico, già. Fortunato da Bergamo, sulla sta facendo squilla, la patente, dai. Squilla però. Buonasera. Sì. Severino? No. Aspetta. Squilla. Fortunato, Bergamo, si dica. Sì. Sono proprio in una riunione nell'Alta Val Brembana con 300 cacciatori. Ah, ottimo, Fortunato. Ma lei è un cacciatore? Lei è un cacciatore? Altro che? E che a chi spara lei? A chi spara, Fortunato? No, io sparo alla selvaggina. Ho capito, ma quali animali ammazza lei? Diciamola tutta, Fortunato. Bisogna parlare papale qua. Papale, beccaccini. Beccaccini, poi? Anze. Sì. Anatidi. Ottimo, poi? Basta. Basta. Ogni cacciatore ha una specializzazione e sì. È tutto regolamentato. Sì. Volevo dire sì. E annunciare tramite la Zanzara sì. Che il 18 sì. Di maggio a sì. Bergamo sì. Si svolgerà la prima giornata nazionale dell'orgoglio venatorio. Vabbè, adesso questo Fortunato, non va bene. Non ne possiamo più di questa gente, cattivi maestri che sparano. Allora, il signor Tozzi, geologo, ha detto che voi alla fine dovete essere eliminati perché vi sparate tra di voi. Era un paradosso. Vi prendete i proiettili, poi ha chiesto scusa, però le scuse sono sempre postume, come dire. No, sono sempre successive, caro Fortuna. Mi passi uno dei suoi amici là. Mi mandano un messaggio intanto. Così. Sì. Posso dirlo? Sì, dica. Abbiamo già denunciato Mocavero per quello che ha detto alla Zanzara. Signor Mocavero, sì. Signor Mocavero. Però non denunci pure noi, sennò facciamo veramente passiamo più tempo in tribunale. Più io, non posso più. Ci vuole che le dica. Questa gente ha bisogno di una lezione di civiltà. Noi rispettiamo le opinioni, ma non accettiamo di essere infangati con... Ma Tozzi che ha detto che vi dovete sparare in testa, tanto vi sparate in testa con i proiettili? Risponderemo con che carta cosa? Bollata. Con la carta bollata. Ma magari sì. potete andare a fare una visitina con i fucili sotto casa di Tozzi. Assolutamente cioè. No. I fucili noi li teniamo. Portatelo con voi a fare la caccia, portatelo con voi. No, lo invitiamo alla nostra manifestazione dell'orgoglio venatorio. Ma figuriamoci se viene quello, su, figuriamoci. Che cosa vuole, allora, che prendiamoci un attimo di pausa. Mi passi uno dei suoi cacciatori, dei suoi aspetta amici. Aspetta, che c'ho un messaggio. Lo passo subito, vieni, Alessandro. Come si chiama questo qua? Alessandro. Siamo Alessandro Balestra. Alessandro Balestra, che fa di mestiere? Cacciatore. Pronto? Che fa di mestiere? Balestra? Faccio cementi armati. Cementi armati. Quante volte va a caccia lei? Tutte le volte che posso. Tutte le volte che posso. Cosa le piace cacciare di più? Io vado a capanno. Mi piace... Che vuol dire? Gli uccelli. Polenta e uccelli. Noi siamo di Bergamo. Uccelli. Senta una cosa. Ma qual è la cosa? Qual è sparare... Cioè, che cosa le provoca a sparare? Mi dica la verità. La cosa più bella non è sparare. E cos'è? La cosa più bella è preparare e... Vabbè, ma anche sparare le provoca una certa emozione, su, diciamo la verità. Anche perché spesso non sempre si riesce a prendere la preda. E quando becca la preda, che emozione è? Ma perché devi fare il buco? È una bella emozione perché tante volte scappano, quindi prima di potergli sparare, quindi non c'è dubbio. L'arte venatoria è proprio quella. Zanzara! Pronto. Professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo. Guarda, non se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma ti faccio vedere, sei un mascal, non stai lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. Questo è niente però. Come lotta. Questo ti assicuro è niente perché non so cosa si è sentito. Ma perché prima non l'hai mandato? No, ma lui non si è sentito, dovevi mandarlo adesso. Prima, ma si è sentito. Rifate il numero, dai, che tanto quello si sarà scordato, sicuramente risponderà, lo dai. Guarda, lo chiamo io da qua. Aspetta, Vai. Ah, signore, questo è arrabbiato, è arrabbiatissimo, è arrabbiatissimo. Il professor Severino Antinori. Non hai idea di cosa mi ha detto. Non hai idea di cosa mi ha detto. Sì, parla un po' come di Pietro. Parla un po' come di Pietro. Sì, arrabbiato, si chiede scusa. Professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo. Guarda, non se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma ti faccio vedere, sei un mascal, non stai lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. Ecco, squilla, ma non risponde. Non risponde? No. Senti? Pronto? Sì, ho sentito. Fai sentire lo squillo, adesso È in viva voce, che volete? Non sentite? No, sentiamo poco. Angelica, provincia di Macerata, un attimo, abbiamo anche un ospite, un secondo. Angelica, provincia di Macerata. Ecco, finalmente. Eccoci. Posso parlare perché devo andare via. Allora, mi stai sulle scatole dopo quello che hai detto, Cruciani, sulla caccia, proprio sai bene. Lo so che non è una cosa popolare quello che ho detto, ma io dico quello che penso, su, dai. Va bene, ok, io dico quello che penso anch'io, però complimenti che l'hai sputtanata a quel bandito zoccolo d'Antinori. Quel bandito? Che fa un bandito, no. Con tutti i sardi, lui proprio, altro che anche colombiano, c'ha una cessa di moglie come cesso lui, ha piazzato. Ma le no, ma che ma stai tranquillo. Stiamo calmi, oh. Ha speculato i soldi, quale Nobel delle mie palle, delle tue palle là. Angelica, stai tranquilla, che è successo? Che è successo? Stia calma. No, è proprio detestabile. E tu gli hai fatto un bel servizio perché hai detto 78.000 euro che ha fregato a una. Io non ho detto nulla. Calma, oh. È uno speculatore, altro che antivaticano, la retorica antiloccesa. Se pompa con la faccia che c'è un zocco, è un bandito. Come la moglie brutta cessa come lui. Ma che come tiene. Si permette? Scusa, ma che dice? Ma non si vergogni? Ma basta offese personali, oh. Ma chi è che ha i capelli tinti? Chi è? Tu e quell'altro lì vicino, vedi niente, io non i mi capelli tingo. Quando vai in TV. Ma vi tingo i capelli? Ma io non mi sono mai tinto i capelli, che sei impazzita? Sì, guarda, ti ho visto con sgarbi. Ma che c'hai stasera? Ma che hai stasera? Che hai stasera? Che mi è venuto il popolone con questo Antinori, guarda, è da anni che mi sta proprio non so dove, guarda, messo proprio in un angolo e tu gli hai fatto un bel servizio, complimenti, al di là di quello che hai detto della caccia o no, ma viva Cruciani che l'hai fatto un cazzà, fatto bene, gli sta bene. Vabbè, anche Angelica, ciao. Ritorno alla Zanzara di uno dei non so perché ho detto Francesco, c'avevo in testa qualcos'altro, caro Parenzo, di uno dei più preziosi commentatori politici in circolazione in Italia. Bene. Secondo te chi ho invitato stasera? Galli della Loggia. No, che Galli della Loggia? Pane Bianco. No. Barbara Spinelli. No, assolutamente no. Ah, Ferruccio De Bortoli. No. La figlia di Ornella Muti, la signora Rivelli. Buonasera. Buonasera a tutti. Come ma andiamo? È Nike o Nike? Come si grazie, dice? Come guarda, si dice esattamente? Nike. Ah, Nike. Ecco, perché Nike vuol dire vittoria in greco. Nike Rivelli. Nike vuol dire confusione in indio americano. Senta, siccome lei si spoglia sempre, anche adesso è nuda. Sempre, ma perché sempre. Devi dire? Anche adesso è nuda? Come? Sì. Cioè, non mi dica che lei in questo momento è nuda. Nel mio balcone, sì. No, ma nuda, ma no, ci sta parlando su. È nuda, non lo saprai mai. Vabbè, non lo saprò mai adesso, mai dire mai. No, beh, adesso adesso non lo puoi sapere, no? Adesso non lo posso sapere, però se tu raccontaci quello che vuoi, ma sei veramente nuda in questo momento o ma mezza? Dai. Mi sto spogliando mentre mi parli, mi devo cambiare. Veramente? No. No, ma devi dire sempre la verità, non puoi coglionarci, perché noi intanto noi lo scopriamo subito, lo allora, sai, no? Allora, mi stavo spogliando, poi però avete chiamato e mi sono interrotta. Senti, ma tu i piedi come ce l'hai? Ho visto qua delle foto, molto belle. Sì, dei piedi della sua... No, io non ho dei piedi bellissimi. No? Però ho dei piedi che si dice prensili, prensili, prendo sì. Le cose. Cioè, prendi tutto con i piedi, con sì. I piedi. Ma perché hai questa... I pizzicotti. Dai pizzicotti coi piedi? Beh, siamo al top qui, siamo veramente al top. Ma si può passare dal professore Antinori, Dell'Utri, la mitica Rivelli? Cioè, veramente senti, ma la mamma che ha combinato? Era da Putin, che ha fatto? Ha fatto un casino tremendo. No, ma che? Ma ti pare? Ha fatto un casino, doveva andare guarda, so dove, poi l'hanno vista con Putin. Io conosco bene la storia, adesso non se ne può parlare bene, ma mamma, fidati, che tra l'altro, lo sapete che mia madre è mezza russa? Mia madre... di parte per l'Italia e di parte per la Russia, si è fatta un anno di lavoro per l'Italia e stava molto male per l'Italia, che e faceva un anno di teatro italiano, gli si è spezzata la voce e è andata a fare una beneficenza in Russia. Ma lo conosci tu, lo conosci Putin anche tu? E tu non lo conosci Putin? No, io non ho mai. Che bella voce che hai, è una voce veramente erotica, lo sai? Davvero? Sì, è una voce molto erotica, sì, un po' rauca, erotica. È tutto fumo e niente erotico. Mi sa di sì, che alla fine è sempre così. Mi sa che tu poi alla fine... Ma come ti permetti? Sì, sono così. No, mi sa che dal punto di vista sessuale... Ma scusa, questa non era una radio tipo seria dove si parlano di cose... Non più. Ci sono allora, due ore e mezza di cazzeggio totale, diciamo. Non due ore e mezza, ma degli spazi di cazzeggio totale. Pronto? Sì. Allora, chi è? Scusa... Vabbè, pronto? Una cosa. No, pronto? Adesso... Sì, pronto? Sì? Pronto? Sì? Chi è? È il conduttore? Sì, è il conduttore. Beh, sì. Sì, è il conduttore. Chi deve essere? Se uno chiama, se un ascoltatore chiama la radio. Cioè, poi alla fine... C'è Antinori ancora, sentiamo un secondo. No, non c'è Antinori. Che mi volevi chiedere? Com'è che ti chiami? Nike, scusami. Che mi volevi chiedere? Ma come ti chiami, però è veramente non carino. No, scusami, come ti chiami? Non era in senso così, ma come ti chiami? No. Nike era per la pronuncia. Volevo sapere il colore delle tue mutande. Il colore, guarda, io porto delle mutande soli, ragazzi. No, porto ogni tanto delle mutande veramente brutte, devo dire la verità. Senta, il colore ho chiesto, mica in questo momento, dici, o in generale come le tu porto? Tu mi hai chiesto come ero in questo momento, ovviamente. No, in questo slip momento bianchi, ho delle credo. Mutande terrificanti. Le hai almeno? Sì, no, adesso questo non esageriamo, io senza mutande non lo cioè, puoi ho fatto ogni tanto del nudismo tanti anni fa. Anche questo hai fatto a Formentera e altrove. Però devo dirti la verità, lo sai che non sopporto quelli che vanno nudi, per esempio al bar. Per me è di una scomodità pazzesca. Sì, anche per me, è cioè, anche poco igienico. Ma sì, Alessandro, ma dai, sono in diretta in radio. Però per dopo, dirti, scusami. Negli spa in tutta Europa, sì. Tranne l'Italia, sì. È quasi obbligatorio invece fare la, cioè, tipo il bagno turco spogliato, la sauna spogliata. Vabbè, il bagno turco adesso che c'entra, il bagno turco... Perché da noi no. E da noi no, si devi portare il costume. Sì, sono andato l'altro giorno qui alle Terme a Milano, effettivamente ti devi mettere il costume. Tipo un ladro, no? Metti il costume. Vabbè, però è anche normale, dai, su, vai a fare il bagno turco, devi avere un no, costume. No, è molto antigienico, è per questo che lo fanno negli altri posti. Perché sì. Nel costume ci sono delle plastiche che fanno batteri, sì. Ma che bella voce, Parenzo. Senti, che ti piace di più della politica italiana, signora Rivelli? Ci sarà qualcuno che ti piace più di tutti? Domanda. No, dai, ci sarà qualcuno, dai, su. Ma lo sai cos'è ti dico? Intanto vivo molto poco in Italia, ogni volta che ci torno è cambiato il governo, quindi non riesco a ma non fare è vero pezzi. Questo cioè... sono un po' confusa. Senti Putin, allora torniamo a Putin, dato che di politica non sai niente. Putin invece l'ho sentito cantare Blueberry Fields e lo sai che canta molto bene, ma su YouTube l'ho visto Su YouTube l'hai visto? Sì, ma c'era anche mamma in quella serata. Ma lo conosci bene Putin? L'hai conosciuto? Io no, personalmente. Tu no. E che lo dice tua madre mamma. Di Putin, che dice? Devi chiedere a lei. Vabbè, ma te l'avrà riferito. Dice che è un uomo eccezionale, un personaggio fantastico. Hanno avuto una storia di due, no? Per carità. Non le posso raccontare queste cose, no? Cioè, mi stai facendo capire che Putin ha avuto una storia con Ornella Muti. Cosa perché tutti gli uomini devono pensare questo. No, ma io non ho pensato questo. Intanto Ornella Muti è corteggiata dal mondo, non solo da Putin. Sì. È normale, no? Sì, assolutamente normale. Assolutamente. Quindi... Parenzo, sei basito? Che è successo? No, no, no, dico, stavo messaggiandomi, cercavo di messaggiare da Antinori. No, ma è chiaro che... Tu stai che... parlando con un altro invece di ascoltarci, ma sì, sta... No, sì, un capone. No, c'era creata, cara Naike, una intimità tale che non volevo disturbarvi. Che non ci vedi, che carina. Senti un attimo, ma stavate tu la cosa più perversa che hai fatto in vita tua, signora Lelli, figlia di Ornella Muti. Sì. Qual è stata? Senti che la vengo a raccontare a te. E vabbè, sì, la puoi raccontare tranquillamente. La cosa più perversa che hai fatto in vita tua. Più perversa. No, non mi va di raccontare. Vabbè, ho capito. Allora, amica mia. Scusa, dai, mica, no? Ma l'altro giorno hai confessato forse di aver fatto... Forse mi sto ascoltando mio figlio. Ma l'altro giorno hai confessato di aver fatto una torta di hashish alle Iene. Vogliamo sentire questa... Avevo 15 anni. Era... Sentiamo sta cosa delle Iene. Ma questo attimo, non dai. Mi pare clamoroso. Ma no, hai fatto una torta, una cosa tremenda. Erano dai. Dei biscottini. Adesso che tua mamma non ci sente, vuoi dirle qualcosa che non le hai mai detto? Avevo 14 anni, volevamo fare i biscotti con il fumo. Li faccio e li sto portando via e passa mia madre e mi fa: ma che hai fatto i biscotti? Quindi gli do questo biscotto. Si è sentita male perché non sapeva di essersi mangiata un biscotto col fumo dentro. No, non la posso, questa non si può dire perché, cioè, perché anche mia sorella se l'ha mangiata un biscotto, aveva 7 anni e ha preso di nascosto sotto il letto. Cioè hai fatto mangiare dei biscotti con l'hashish a tua sorella di 7 anni, ti rendi conto o no? No, vabbè, così mi vengono ad arrestare, li ha rubati da sotto. Ma è tanto, l'hai detto in televisione, cioè non è che non la puoi... Cioè... Ah, ti devo dire, la posso dirsi da casa, le Iene hanno fatto un servizio favoloso, ma... Quella cosa mi avevano girato che era fuori camera, ti giuro sulla mia vita. Veramente? Infatti mi sono girata, non è neanche diretta, questo non si può dire... Un po' ladroni. Vabbè, ma succede, dai. Comunque su. Ti posso confessare una cosa? Confessami una cosa. La mia fantasia più perversa l'ho avuta su di te e quindi non la posso raccontare. Ma non è vero, te la devo raccontare in privato. Non è vero. No, io ascolto la Zanzara perché ogni tanto voglio averlo duro a Castello di Genova. Beh, ma noi no, duro. Ma noi no, però noi ma no. Ma buona fortuna allora. Va bene, dai, che ti saluto, va. Ciao, un bacio. Ciao. Rosa, se va bene rosa. C'è sempre meno figa. Da voi in trasmissione. No, ragazzi, no, perché questa era una voce veramente bella. Io quando lavoro con Pietro La Corte rischio sempre il licenziamento, rischio sempre. È così, una costante, vedete, che mi mette tutte le peggiori cose che sono state prodotte qui, le peggiori frasi, voglio averlo duro, eccetera. Dunque, dopo due secondi che finisco la visione mi chiamano: basta sesso, basta cose hard, basta, non si può continuare così. Ma non è colpa mia, è signor La Corte, Pietro La Corte. No, adesso non prendere, non che guadagna meno, il barile, che ripeto, guadagna meno di un contrattista, di un consigliere del CNEL, che non fa un cazzo mentre questo lavora, però comunque è così, questa è la realtà. Vabbè, dai, riproviamo un attimo col matto, dai. Francesco dalla provincia di Milano. Oh, buonasera. È il matto, il professore? No. Pronto? Sì, sì. Non risponde. Cruciani mi sente? Ti sento, dimmi. Ah, buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Allora, intanto secondo me non preoccupatevi più di tanto se Antinori non risponde più, perché insomma non ci avete granché da una persona del genere. No, ma era divertente capire se ce l'ha ancora con noi oppure no. Sì. Ma sì, ma lasciatelo perdere, intervistate delle persone molto più oneste di Antinori. Vabbè, che c'entra questo? Noi intervistiamo pure i matti delinquenti, un attimo. Per quanto riguarda... Che ha fatto? Il blocco del telefono, che ha fatto? Ma solo questo numero abbiamo del professore? Sì. Professore, rispondi, ti prego, dai. Voglio un altro sbrocco in diretta, ti prego. No, era molto arrabbiato la prima volta con me, molto. Sì? È irripetibile quello che ha detto. Irripetibile, guarda. Ma era sotto effetto di qualcosa? No, mi ha fatto arrabbiare anche a me, figura. Adesso non so cosa si è sentito di quello che gli dicevo. Sì, però... si è sentito. Ma come si è sentito? Ha voglia. No. Ma sei un criminale, quasi tutto. Ha ragione lui. Francesco, provincia di Milano. Ecco. Allora. Parenzo. Sì, caro. Ascolti, Parenzo. Allora, per quanto riguarda il senatore Dell'Utri. Ecco, io penso una cosa. Quando uno Stato perseguita, e secondo me Dell'Utri è stato perseguitato da questo sistema, specialmente dai cosiddetti professionisti, io li chiamo i professionisti dell'antimafia, che con la scusa dell'antimafia. Vabbè, è troppo lunga adesso. Comunque, secondo lei è stato perseguitato? Dunque? Certo, è perseguitato. Parenzo, lei lo sa l'articolo 27 della Costituzione che cosa dice sui detenuti? E intanto che mando un saluto a tutti i detenuti. Ma certo, sul fatto della pena che deve essere rieducativa, ma non è questo il tema, però, ecco, caro amico mio. No, lo so perfettamente. È un tema importante, ma secondo te e secondo voi, secondo voi che non c'è stata una persecuzione politica nei confronti c'è del senatore? Ci sarà forse tra qualche giorno una condanna definitiva a 7 anni per concorso esterno. Che ti devo fare io, amico mio? Che devo fare? Vabbè, secondo lui c'è stata una persecuzione, dai, forza, dove andiamo? Giulio da Udine, Giulio, vai. Ciao carissimo, un commento sulla caccia e uno sulla giustizia, quale vuoi per primo? Quello che vuoi, la caccia, dai, a più divertente. Caccia. Io sono un cacciatore, ma non vado più in caccia in Italia, perché i cacciatori italiani fanno schifo. Mi sono vergognato a vedere padre e figlio che avevano abbattuto un cinghiale una domenica. Perché? Litigarselo con una roncola in mano, e non è un caso. Vabbè ragazzi, dai, non esageriamo, sono casi. Ci sentiamo lunedì 18:30. Ciao. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Pronto? Professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascara, non ti essere lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. Radio 24. La passione si sente.